Ok, soggiornerai giù nei miei guai. Ormai li hai fatti tuoi, ci giocherai. Lo zoo si incendierà bruciando i sogni miei. Lo sai, non so chi sei, ringrazierai. C'è solo immagine, due angeli in volo senza un limite verso lo schianto. Lo zoo si incendierà bruciando i sogni miei. Lo sai, non so chi sei, ringrazierai.